tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo al 7° appuntamento del notiziario anticlericale. Oggi parleremo della nostra bestia nera, l'ora di religione cattolica nelle scuole. L'argomento non sarà ovviamente esaurito in una sola breve trasmissione, ma ne parleremo più volte, due o tre volte, poi per non stancare passeremo ad altro. Segnalo, per chi vuole approfondire, il libretto Avvalersi e non avvalersi, guida la normativa sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola, redatta dal Comitato Nazionale Scuola e Costituzione con illustrazione di Sergio Staino, i libricini, casa editrice Valore Scuola, che spiega bene tutta la questione. Anche l'UAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, ha fatto il progetto Ora Alternativa. È un progetto avviato per ottenere come primo obiettivo una reale parità tra chi si avvale dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica e chi decide di non frequentarlo. In particolare questo progetto è rivolto a chi, genitore, studente, eccetera, interessato alle attività formative alternative previste dalla legge, incontra difficoltà. Il secondo obiettivo del progetto è il superamento dell'attuale sistema educativo che discrimina gli scolari in base alle scelte religiose dei genitori. L'UAR, che ha tra i suoi obiettivi l'abolizione dell'ora di religione nelle scuole, non fornisce alcun suggerimento a genitori e studenti, qualunque scelta compiano è senz'altro da rispettare. Tuttavia, la terza scelta crea sovente delle difficoltà, laddove l'insegnamento della religione cattolica è garantito, strutturato e finanziato, le altre attività, le famose attività alternative all'ora di religione, sono precarie e senza nessuna regola. Per rimediare a questa situazione, l'UAR ha deciso di lanciare un progetto sull'ora alternativa che prevede di dare assistenza a genitori e studenti, creare uno spazio online dove genitori e studenti possono trovare informazioni, sensibilizzare istituzioni, eccetera. www.oraalternativa.it e chi vuole avere informazioni, info@oraalternativa.it. E ricordiamo una vittoria che si è ottenuta a Genova nel 2014, no all'ora di religione. A Genova un'intera classe decide di non avvalersi, molto bene. A Torino, anche da Torino, buone notizie. Nel 2017, ci segnala la Repubblica, Torino, un solo alunno a religione, per gli altri il supplente. L'agenzia di stampa Adista, che noi seguiamo in quanto è un'agenzia cattolica alternativa, ci segnala: Lussemburgo, a scuola il corso Vita e Società rimpiazza quello di religione. Molto bene. Sostituzione del tradizionale corso di religione con un altro di morale laica e lezioni di vita e società nel Granducato del Lussemburgo. Riorientamento dei circa 220 insegnanti toccati dal provvedimento, ex insegnanti di religione, per una scuola laica. Sebbene l'insegnamento confessionale della religione cattolica nella scuola pubblica sia facoltativo, oggi si caratterizza ancor di più come inappropriato, inopportuno, privo di efficacia e antistorico. Quindi io auspico, noi laici auspichiamo l'introduzione di un insegnamento curricolare obbligatorio volto alla conoscenza della storia delle religioni e del libero pensiero, dei fondamenti dell'etica razionale, dei principi e valori della cittadinanza e della Costituzione. Inoltre la Consulta propone l'introduzione dello studio del fenomeno religioso anche in abbinamento ad altre discipline. Noi sosteniamo convintamente la necessità, già nel sistema attuale, di ripristinare la centralità del ruolo dello Stato laico anche nella gestione del personale. Gli insegnanti di religione devono essere selezionati tramite concorso pubblico, così come stabilito dall'articolo 97 della Costituzione e previsto per tutti gli altri insegnanti. La formazione degli insegnanti di religione deve essere in linea con richieste e requisiti previsti per gli altri professori. La supervisione dei libri di testo deve essere prerogativa autonoma, indipendente, esclusiva dello Stato. Autonomia, laicità e libertà devono essere ripristinati. Ricordiamo anche un mio vecchio articolo sull'ora di religione. Da un punto di vista politico, poiché la Chiesa Cattolica ha sempre fatto esplicita propaganda per la DC, la presenza di insegnanti di religione nella scuola non può che favorire questo partito, costituendo un ulteriore discriminante per il mondo laico. E questo è il mio vecchio articolo anticlericale del 1992 in cui attaccavo la Democrazia Cristiana. Beh, andremo avanti con la cultura laica e cattolica nelle scuole nelle prossime puntate del notiziario anticlericale. Saluti da Pierino Marazzani.